Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ancora code di carattere europeo oggi a dominare nella giornata economico-finanziaria. Mi riferisco da un lato a alcune dichiarazioni del presidente della Bundesbank Weidmann e varie ricostruzioni giornalistiche che non mollano la presa sull'idea che, al di là delle dichiarazioni di ieri, al di là dell'unanimità con cui la Banca Centrale Europea ha ricevuto mandato ad andare avanti, Draghi, non dico sia accerchiato, però abbia una forte resistenza interna. Certo, potrebbero venirgli in soccorso paradossalmente alcuni dati che arrivano dalla Germania. Anche oggi sotto le attese della produzione industriale +1,4. Ieri abbiamo visto un debole dato sugli ordinativi industriali +0,8%. Ancora per quello che riguarda la Germania, il dato sull'export invece è buono, +5,5%. Nel frattempo, dicevo, code europee, perché invece non si placa assolutamente la vicenda che ha coinvolto direttamente l'attuale neopresidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Come vi ricordavano i nostri GR24, a questo punto sarà la stessa Commissione europea ad investigare, diciamo, sul suo presidente. Lo ha chiarito il capogruppo dei popolari europei, Manfred Weber, durante una visita alla sinagoga di Roma. Ha detto: è chiaro che la Commissione europea deve investigare sulla situazione del Lussemburgo. Juncker ha detto chiaramente che sarà imparziale e non interverrà. Le accuse, le ricordiamo, sono quelle di aver stretto accordi sottobanco quindi segreti, ecco perché lo scandalo, diciamo, diventa uno scandalo vero e proprio, con 340 grandi aziende di tutto il mondo, di cui 31 italiane, per far arrivare in Lussemburgo flussi di capitale. Tecnicamente si tratterebbe di accordi di tax ruling che consentono di conoscere in anticipo le imposte da pagare e organizzare così la distribuzione dei profitti in modo da minimizzare l'impatto del fisco. Spostando i profitti in Lussemburgo, quindi viene assicurato un trattamento di favore. Pensate che il gruppo britannico Dyson in questo modo è riuscito a ridurre gli adempimenti fiscali all'1% dei guadagni. Ora io sfido chiunque di voi in ascolto a pagare l'1% dei guadagni. È vero che molti paesi lo fanno, lo ha detto il ministro dell'economia lussemburghese Pierre Gramegna, che forse era il caso stesse zitto visto che è chiamato direttamente in causa. Molti paesi lo fanno, gli accordi fiscali ad hoc. Se vogliamo creare una situazione dove le imprese paghino un ammontare soddisfacente di tasse, serve un'azione internazionale. Sì, che il Lussemburgo abbia ben presente che se armonizziamo la fiscalità in Europa, come dovrebbe essere, il Lussemburgo smette di esistere in quanto paese attraente per non pagare fisco o pagare meno fisco. Detto questo, anche il commissario europeo francese Pierre Moscovici dice: combattere il fisco illegale è la mia priorità, è una questione anche di etica, vediamo se ci sarà un nuovo spirito. Di questo parleremo in apertura. È intervenuto sui temi europei anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha detto: basta rappresentazioni meschine dell'Unione Europea, serve rinforzare il senso di appartenenza. Il Premier Renzi su questo, e poi varie dichiarazioni del numero uno del Fondo Monetario, Christine Lagarde, tutte di appoggio esplicito e netto a Mario Draghi per la sua operazione e soprattutto per la sua attività. Ancora per quello che riguarda gli altri temi, cercheremo anche di capire che cosa stia succedendo sulle borse. Ora, perché lo dico? Non perché oggi la giornata sia drammatica: -1,16%, -0,80 Parigi, -0,90 Francoforte, +0,30 Londra e invariata l'America. Ma sarà l'occasione oggi, essendo venerdì, anche per fare il punto su come è stata il non assorbimento degli stress test. Perché lo dico? Perché oggi di nuovo la Popolare Emilia Romagna perde il 3,60%, il Banco Popolare il 3%, Ubibanca il 1,90%, la Pop Milano il 2,20%, Intesa San Paolo meno 1,87%. Per cui c'è ancora una forte debolezza sui titoli bancari, non giustificata da notizie forti, fortissime. C'è un dato deludente sull'occupazione americana, però insomma, su Telecom invece abbiamo visto, ci sono i dati trimestrali, quindi anche dei 9 mesi, varie dichiarazioni. Va bene oggi Saipem più 4,50, Prismian più 3,5, Hughes più 3,20, Moncler più 2,5, Autogrill più 2, CNH più 1,40 e Ferragamo più 1% come Tenaris. Ma in generale vorremmo capire che, qual è il ragionamento che viene fatto anche sui titoli, soprattutto bancari, perché ripeto, mancano notizie forti e nette che possono far venire voglia di vendere i titoli, soprattutto bancari. Visto che parlavo di borsa, vi do anche l'euro, che è sempre vicino a quota 1,24 e 20. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, sul Lussemburgo, adesso ci arriviamo. Non è un reato detenere servizi finanziari in Lussemburgo. Qualcuno mi scrive, ma lei lo scopre adesso che Lussemburgo è un paradiso fiscale? No, guardate, mi ricordo, c'era ancora Salvadanaio, parliamo del 99-2000, già facevamo le prime puntate sulle SICAV e sulle società estero vestite lussemburghesi. Lo sappiamo da sempre che in Lussemburgo c'è un trattamento fiscale di vantaggio, e poi non ci vuole molto, fatemi fare la battuta, per avere un trattamento fiscale più vantaggioso di quello italiano, non ci vuole niente. Il punto è un altro, così come in Irlanda, così come in altri paesi. Il punto è se questi accordi sono stati fatti sotto banco, cioè non rispettando la trasparenza, ma e da quello che sembra dall'accusa, anche dando condizioni di ulteriore vantaggio a chi lì si sarebbe spostato. Questo è il punto, diciamo, giuridico. Poi c'è il punto politico. Può il neo presidente della Commissione europea, che deve garantire tutti e che si batte per l'armonizzazione fiscale di questo paese, essere la stessa persona che per 18 anni ha guidato il Lussemburgo e dove, secondo appunto le accuse e le inchieste rivelate, vi sono stati così tanti contratti sotto banco firmati con grandi multinazionali o grandi imprese e banche dell'area euro? Che credibilità ha da ieri Juncker? Né quando parlerà della necessità di credere all'Europa, che l'Europa è unica, che i paesi devono pensare agli altri, che occorre essere tutti sulla stessa barca nel rispettare i vincoli e quant'altro, che credibilità politica avrà? E ha? Vabbè, andiamo avanti con le altre notizie. Già dicevamo della produzione industriale russa, della produzione industriale tedesca. A proposito di Russia, invece, c'è un nuovo record negativo del rublo. Ormai va a 60, praticamente l'euro, un euro vale 60 rubli, non era mai successo nella storia. Sul dollaro siamo a un dollaro per 48,47 rubli. La banca centrale russa si dice pronta a aumentare in qualsiasi momento il proprio intervento monetario. Ha speso per ora, ha fatto sapere in un comunicato, solo 30 miliardi di dollari per sostenere il rublo. Si diceva dell'America, dove la disoccupazione è scesa, si aspettava un tasso migliore, ma comunque è al 5,8% la disoccupazione americana, ai minimi da 6 anni, e quindi da quando la crisi è scoppiata, perché l'America, stampando moneta, iniettando liquidità, certo con un mercato del lavoro flessibile e dinamico, è riuscita a uscire da questo, ha un deficit altissimo, adesso dovrà rientrare dal deficit, ma l'obiettivo anche della Banca Centrale Americana era l'occupazione in questi anni, e c'è evidentemente da questi dati riuscita. L'obiettivo della Banca Centrale Europea in questi anni, grazie all'impostazione tedesca, è stata l'inflazione. Infatti l'inflazione non c'è in Europa, quindi Mario Draghi sta cercando di porsi un altro obiettivo che si chiama crescita, piaccia o non piaccia a Stowe Weidman. E la numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, oggi dice: vabbè, i banchieri centrali devono fare il possibile, devono essere pronti a usare tutti gli strumenti disponibili, incluse le politiche non convenzionali, a sostegno della ripresa. Per cui è come se spiegasse ai suoi colleghi dei singoli stati dell'area euro, in alcuni stati soprattutto, che la banca centrale non deve occuparsi solo di inflazione, ma di aiutare la ripresa. Aggiunge poi: i recenti stress test delle BCE sono importanti per restituire fiducia. Sì, dipende poi da come sono gli esiti. E poi parla anche il presidente della Bundesbank, della banca centrale tedesca, Hans Weidmann. Dice: le parole del presidente della BCE, Mario Draghi, di riportare il bilancio dell'Euro Tower della BCE sui livelli del 2012, grazie agli acquisti dei cover bond e di ABS, non sono un obiettivo ma un'aspettativa senza una data di riferimento. Quindi un'altra nota polemica, per carità. Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale invece, Christine Lagarde, ha detto: le parole di Draghi sono legittime e appropriate, anche perché l'Europa è di fronte a una situazione fragile, frammentata, che coinvolge poi il rischio di coinvolgere l'intera economia mondiale. La crescita sarà verso i 5 punti percentuali, cioè più 5% per le economie emergenti, più 3% a livello globale e più 1% per l'area euro. E poi anche Christine Lagarde insiste: il lavoro e la crescita sono le priorità, occorre usare tutte le leve dell'economia mondiale. Il riferimento di nuovo anche alla Banca Centrale Europea. Su questo il Presidente della Repubblica, dicevamo, Giorgio Napolitano, è intervenuto: basta rappresentazioni meschine dell'Unione Europea, occorre rinforzare il senso di appartenenza europeo. L'intento, ma è quello, semplicemente, senza pretendere troppo, diciamo, da quello che possiamo fare in questo momento, comunque l'intento è quello di sollecitare lo sforzo ben più ampio e sistematico che è necessario per suscitare nel maggior numero possibile di italiani il senso di una immedesimazione nell'Europa unita, che non è qualcosa di estraneo a noi come italiani, al nostro paese come l'Italia, è qualcosa di esterno e magari di ostile. Io dico naturalmente Europa unita intendendo un'Europa che nel suo crescere da 6 paesi membri a 28 oggi ha conosciuto molte crisi, molti travagli, ha fatto anche dei passi avanti e dei passi indietro, ma ha comunque realizzato tutto un insieme di conquiste e di obiettivi di cui una gran parte rischia di essere dimenticata nelle convulse e riduttive polemiche politiche di oggi. Vabbè, chiaramente il Presidente della Repubblica nel suo ruolo istituzionale deve anche ricordare i vantaggi e il percorso fatto dall'Europa. So benissimo che alcuni scrivono: non c'è bisogno di avere rappresentazioni meschine all'Europa che si fa male da sola, lo so, però insomma, noi commentiamo l'attualità e le notizie di cronaca. Giustamente il Presidente della Repubblica deve ricordare quello che è comunque il disegno complessivo di appartenenza europea. Veniamo invece al Premier Matteo Renzi, che oggi è intervenuto anche su questi temi durante la visita alla Piaggio Aerospace, dove tra l'altro ha ricordato giustamente che era una storia da raccontare, perché era un'azienda che sembrava cotta e finita, ma è ripartita. Renzi ha anche aggiunto: in Italia c'è il freno a mano tirato per paura del futuro, è vero, ma anche del presente, aggiungiamo noi. Guai a fare del lavoro il terreno di scontro, mi appello affinché non si mettano gli uni contro gli altri. Nei giorni scorsi l'ho fatto, lo rifarò nei giorni futuri, continuerò sempre a fare un appello, perché anche nella discussione di queste ore sulla riforma del mercato del lavoro ci sia la capacità di non mettere gli uni contro gli altri. Si possono avere idee diverse, idee opposte, è normale, è naturale, è la bellezza del confronto e della dialettica democratica, ma guai a pensare che si possa fare del mondo del lavoro il terreno dello scontro. Quando uno sta in una fabbrica, sta in un'azienda, sta in una start-up come sta in un vecchio capannone, quello che ci lega è qualcosa di più del prendere lo stipendio il 27 del mese o il 10. Quello che ci lega è l'idea di appartenere a una storia, la storia che è stata scritta da qualcuno e che oggi è una storia che ci vede protagonisti, e quindi l'appartenenza a un mondo è un reticolo di valori. E ancora per quello che riguarda l'intervento del Presidente del Consiglio, ha detto: noi dobbiamo smettere di pensare che il tempo che ci riguarda è il passato, è il futuro, il paese è pieno di esperienze di assoluta eccellenza ed è in grado di togliersi di dosso la paura, la muffa, l'idea che la rassegnazione vinca. Possiamo con il nostro lavoro smettere di continuare a credere che tanto per noi il tempo che ci riguarda è il passato. Il tempo che ci appartiene è il futuro, non perché cancelliamo ciò che abbiamo fatto, ma perché il paese è pieno di esperienze come la vostra, in altri settori, perché come la vostra in questo settore non c'è nessuno, se no mi tolgono subito il microfono, ma anche perché è vero, ma il paese è pieno di esperienze di assoluta eccellenza, assolutamente all'avanguardia, che è nelle condizioni di rilanciare e di aiutare a crescere. Bisogna togliersi di dosso la paura. Bisogna togliersi di dosso la muffa, bisogna togliersi da dosso l'idea che la rassegnazione l'abbia vinta. Si inaugura una fabbrica, ok, è bellissima, sì, 127.000 metri quadri, meravigliosa, la più avanzata al mondo, benissimo. Ma la fabbrica più grande che si inaugura oggi è il nostro desiderio di non accontentarci di fare le comparse, il nostro desiderio di non stare ai margini della foto di gruppo del mondo, il nostro desiderio di non essere soltanto dei numerini e dei codici fiscali. Così appunto il premier Renzi. Va detta una cosa, non sta a noi giudicare se sarà questo governo, questa politica, a riuscire a ridare fiducia al paese, però è verissimo, noi delle volte lo raccontiamo, poi veniamo accusati di dire che va tutto bene, madama la Marchesa, ma questo è ancora la seconda manifattura d'Europa, il secondo paese per esportazione d'Europa, ci sono migliaia di imprese di eccellenza nei loro settori, abbiamo fatto decine di volte la classifica dei settori produttivi in cui siamo numero uno, numero due, numero tre. Poi il nostro compito come giornalisti è raccontare anche che cosa non va bene e fare, dicono in inglese, il cane da guardia, se ci riusciamo, della democrazia. Delle volte magari non ci riusciamo e facciamo il cane da salotto, però dovremmo fare il cane da guardia della democrazia. Però è vero che adesso un conto è criticare le riforme che dobbiamo fare internamente, il malfunzionamento anche della nostra pubblica amministrazione, degli enti locali, laddove sprecano, rubano o spendono male. Però poi non dimentichiamoci che cosa abbiamo costruito e che cosa hanno costruito i genitori in questi anni. Detto questo, poi sta anche alla politica a rimettere margini di fiducia. Una nota fatemela fare, ma non riguarda Renzi, riguarda l'agenzia ANSA. Io capisco tutto, però a me fa un po' strano vedere un'agenzia col titolo Renzi alla Piaggio Aerospace si intrattiene con le maestranze. Ecco. No, adesso ricorda un po', si intrattiene con le maestranze, non so se si può, no, ma non diciamone più. Ricordo un ventennio di cui non abbiamo nessun tipo di nostalgia. Renzi si intrattiene con le maestranze, sorge il sole, canta il gallo, mi diceva Malaparte. Allora andiamo avanti con le cose serie, serissime, e mi riferisco al ministro dell'economia Padoan, che dice: attenzione, non c'è stato negoziato al vertice Ecofin che si è concluso oggi e tra l'altro l'Ecofin completerà a dicembre l'accordo politico sulle direttive sulle sussidiarie. Traduco: una direttiva che ha lo scopo di impedire che il trasferimento dei profitti delle imprese e delle loro filiali in altri paesi venga utilizzato per evadere il fisco in più paesi, cioè quello che stanno facendo anche le grandi multinazionali. Comunque nessun negoziato all'Ecofin. Vorrei chiarire che non c'è stato nessun negoziato a Ecofin sulle quote delle risorse che i paesi devono in base a questa misura e che attendiamo il risultato delle proposte tecniche della Commissione per valutare anche le implicazioni in termini di pagamento. Nessun negoziato. E poi sulla vicenda LuxLeaks, come si chiama, quindi quella che coinvolge il neo presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, per 18 anni primo ministro. in Lussemburgo. Il commissario degli affari economici Moscovici dice: combattere il fisco illegale è la mia priorità, è anche una questione di etica. Lussemburgo si è difeso con una risposta che questo Pierre Gramegna, il ministro dell'economia, poteva anche risparmiarsi. Molti paesi lo fanno. Se vogliamo creare una situazione dove le imprese paghino un ammontare soddisfacente di tasse, serve un'azione internazionale. Sì, vabbè, dai. In realtà Lussemburgo campa su questo. Detto questo, sempre il ministro dell'economia Piercarlo Padoan dice: la credibilità di Juncker non è a rischio. La vicenda è il risultato di un clima più trasparente. Penso assolutamente di no. Io interpreto questo fatto il risultato di un clima in cui c'è molta più trasparenza, come dimostrano le decisioni che sono state prese con l'adozione dello scambio automatico di informazioni. Allora, Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei, buonasera. Buonasera. No, scusami se sto un po' sorridendo, ma mi stanno scrivendo gli ascoltatori per quell'ansia su Renzi, si intrattiene con le maestranze, vi prego. Uno mi scrive: a torso nudo, l'intimorato arringava le maestranze in nome del futuro. Vabbè, ripeto, è un periodo che... dico semplicemente che si può dire: Renzi si è trattenuto con i dipendenti, il premier si intrattiene con le maestranze. Fa un po' così. Allora, poi non vorremmo arrivare poi agli spostamenti di mucche da una fattoria all'altra, se qualcuno si ricorda un film che mi sembra che si chiami Gli anni ruggenti. Andiamo a noi. Padoan giustamente è un uomo di classe, elegante, a fair play, non marmaldeggia su Juncker e dice: no, non penso che la sua credibilità verrà intaccata. In realtà sappiamo, Adriana, che non è così. Dal punto di vista della correttezza dell'azione di Juncker sul piano legale europeo non c'è niente da dire. Juncker è in una botte di ferro, il Lussemburgo è un paradiso fiscale per le imprese e probabilmente lo sarà per poco, perché la normativa OCSE sta cambiando un po' l'atteggiamento dovunque, comprese le prossime riunioni del G20. Però come Lussemburgo ci sono paesi che rappresentano società, paesi fiscali per le società che sono come minimo all'altezza, a volte sopra il Lussemburgo, tipo sì, l'Olanda, tipo la Gran Bretagna, tipo la stessa Irlanda. Quindi sotto quell'aspetto Juncker non ha nulla da temere, se non come Olanda e Irlanda, che a loro volta sono sottoposti alle stesse procedure di inchiesta da parte del commissario alla concorrenza, se non appunto delle pratiche di aiuti di Stato illeciti, cioè distorsivi della concorrenza. Questo è l'unico rischio, diciamo, dal punto di vista giuridico che il Lussemburgo e Juncker corrono. Il discorso è diverso sul piano politico, nel senso che oggi con un'Europa in crisi, con i cittadini costretti ai sacrifici, con le tasse che inevitabilmente aumentano, è evidente che chi ha favorito l'elusione comunque consentita, perché non ci dimentichiamo che oggi la sovranità fiscale degli stati è intatta, nonostante la moneta unica, nel senso che si vota all'unanimità per qualsiasi decisione, e quindi c'è poco da fare. Voglio dire, finora non c'è stata armonizzazione sulle imposte societarie, ma non perché il Lussemburgo era il diavolo granducale, semplicemente perché non c'è mai stata l'unanimità, ma il Lussemburgo non era solo d'opporsi. No, è vero. Sul fisco societario non era di quelli più irriducibili. Quindi ecco, il problema per Juncker è un problema politico ed è un problema etico, ma ripeto, perché ci troviamo in questa particolare situazione difficile in Europa. Se non fosse così, fosse stato qualche anno fa, sarebbe stata una procedura come tante che avrebbe dovuto appurare se esistevano meno distorsioni di concorrenza Resta con noi, Adriana, perché giustamente tu fai notare che lo ricordavamo anche noi, da un punto di vista legale, al di là degli aiuti di Stato non c'è nulla, e non è solo Lussemburgo, ricordavamo anche l'Irlanda e la polemica che va avanti da alcuni anni, che ha visto in primo campo anche la Francia, di far pagare le tasse alle multinazionali che, avendo diverse sedi in diversi paesi europei, poi tendono, diciamo così, quello che emergeva anche dalle parole di Moscovici, a far pagare tutti gli utili laddove hanno la fiscalità maggiore di vantaggio. È tutto legale, però è chiaro che è sempre meno diciamo accettabile in un'Europa a cui poi si chiede di fare tutti gli stessi sforzi. Detto questo, a me interessa anche il tema politico, perché non mi sfugge che dopo la polemica, vabbè, Juncker, Renzi, in questo momento c'è in corso un braccio di ferro strisciante che Mario Draghi nega tra la Germania, i paesi lei vicina e la Banca Centrale Europea, e c'è comunque un Juncker che era visto, insomma, come, non dico uomo tedesco perché sarebbe limitativo, però come rappresentante anche e soprattutto della Germania. Vorrei capire se secondo, dopo il merito della pubblicità, se secondo te qualcuno potrebbe avere la tentazione di sfruttare questa difficoltà oggettiva e politica di Juncker per cercare di riequilibrare o di modificare i pesi interni alla Commissione Europea. minuti. Allora, Adriana Ceretelli, posto che, ed è giusto specificarlo, che il Lussemburgo non è l'unico che da sempre questa strana area euro chiede deficit e debiti uguali, diciamo, che tendono a essere uguali, sotto il 3%, sotto il 60%, ha un'unica moneta unica, poi ha regimi fiscali completamente diversi. È un po' come se l'Italia venisse gestita con il Veneto con una tassazione, la Calabria con un'altra, la Val d'Aosta con un'altra ancora e la Lombardia con la quarta, obiettivamente ne vedremo di ogni colore. Quindi da sempre le società che hanno diverse filiali in Europa scelgono poi di pagare le tasse, e quando riescono, la sede fiscale famosa per quella di Fiat negli anni recenti, laddove hanno maggiori vantaggi fiscali. E voglio dire, chiamale sceme, bisogna capire se poi non c'è aiuto di Stato, come dicevi tu, e quindi atto scorretto da uno Stato rispetto all'altro. Però il tema politico di Juncker resta comunque, e cioè qui abbiamo un Presidente della Commissione Europea che aveva appena fatto tempo a dire no, io sarò diverso da Barroso, non sarò così accondiscendente, ci sarà la posizione mia come Commissione Europea, non trascriverò solo le indicazioni che arrivano dai grandi a partire dalla Germania, e mo è un po' un'altra zoppa, o no? Ma sì e no, nel senso che quello che dicevo prima è che c'è un problema di credibilità politica di Juncker, e se si vuole a un certo punto di un comportamento etico, più o meno etico. Ma da altri punti di vista è difficile attaccarlo, perché non ha fatto niente di illegale. Mi rendo conto che è un discorso. No, a meno che non venga dimostrati, a meno che non vengano dimostrati a meno patti, che non venga dimostrato certo. Che lui abbia preso delle bustarelle, delle no, cose. O patti, allora, o patti sotto ecco. Banco comunque. O anche parte sotto banco, perché sicuramente ma non ne aveva bisogno, perché erano regimi legali, quindi non aveva bisogno di fare patti sotto banco, nel senso che questi patti prevedevano ma non solo in Lussemburgo, anche in altri paesi, tassazione zero, quindi questo è un tipo di patti che finora è esistito in Europa nella perfetta legalità, quindi sotto questo aspetto si può attaccare solo da un punto di vista etico-politico, cioè quello che dicevo prima, come fai a essere Presidente della Commissione che distribuisce sacrifici, pagelle, botte da orbi in certi casi, eccetera, e poi tu sei quello che ha accettato di creare la ricchezza del Paese sulla concorrenza fiscale aggressiva, perché poi è una concorrenza fiscale aggressiva, non è niente altro. Ecco. Allora, una volta questa concorrenza era accettata, la crisi economica e le difficoltà dei bilanci nazionali oggi fanno sì che il mood, il sentimento generale stia cambiando. Però è una questione, come al solito, che non può essere risolta solo in Europa, ma va risolta a livello globale, tant'è vero che ne parleranno settimana prossima a Brisbane alla riunione del G20, perché altrimenti è evidente che se uno chiude tutte le possibilità di avere delle agevolazioni, i capitali vanno, a meno che naturalmente non si blocchi la libera circolazione dei capitali. Però è una possibilità. Adriana, però scusami, in questo momento però, se io sono la società X e ho 10 filiali in Europa, posso permettermi di far pagare tutti in Irlanda, in Olanda, in Gran Bretagna, la maggior parte degli utili, mentre se vi fosse l'armonia fiscale in Europa, non è che posso far pagare tutto in Canada o in Australia o negli Stati Uniti, perché comunque le filiali europee, il giochetto che viene fatto in questo momento è di portare tutti i flussi di cassa alla filiale più conveniente in Europa, perché se fossimo tutti con la tassazione uguale, Quando ci sarà l'armonizzazione, quei capitali in Europa non vengono più. Cioè, bisogna anche ricordarsi però questo. Non è che vuol dire che Apple e Microsoft mollano l'Europa, così? Smettono di fatturare in Europa? Certo che mollano l'Europa. Se non hanno un vantaggio fiscale, perché devono stare in Europa? Perché vendono anche in Europa. Perché vengono anche in Europa? Vendono anche in Europa. No, sì, ma vendono anche. D'accordo. Se ma vendi qua, fatturi qua. Per cui Google, eccetera, perché hanno questi vantaggi fiscali, per cui investono qui, creano delle filiali nei paesi che offrono questi vantaggi. Nel momento in cui non ci fossero questi vantaggi, o ne cercherebbero degli altri o starebbero dove stanno, con le loro sedi, chi negli Stati Uniti, chi dove sta, insomma. Cioè è un business per l'Europa che è affamata di capitali. Detto questo, visto da un altro punto di vista, è assolutamente riprovevole. Di vampiro. Infatti tu parlavi di vampiro. Sono politiche vampiro. Per cui, ma detto questo, ripeto, se il mondo cambia e la globalizzazione porterà a un'armonizzazione, chi naturalmente aderirà dovrà rassegnarsi a non vedere più certi capitali che arrivavano in Europa per questa ragione, continuare ad arrivarci. Ecco, insomma, c'è un dout des in questo gioco. Sì, anche perché questo è chiarissimo, anche perché però faccio notare varie dichiarazioni di oggi, il tono di fondo è, penso all'ex ministro Visco, tu parlavi di vampiri, lui era considerato appunto il vampiro per eccellenza, però dice una cosa abbastanza lineare, non si capisce perché se un imprenditore non fattura un po' di ricavi rischia la galera nel suo paese, se mette su un'architettura internazionale per cui risulta che tutti i flussi più grossi li ha sviluppati nel paese dove la tassazione è più vantaggiosa, non rischia nulla. Ora, perché sennò rischiamo di creare anche qui la casta di chi si può permettere gli studi legali da commercialista, degli avvocati che ti spiegano esattamente, e anche i paesi, perché l'accusa a Lussemburgo è di aver avuto un ruolo proattivo in questo, per nessuno fare un'inchiesta per scoprire che Lussemburgo è un paradiso fiscale. L'inchiesta, da quello che abbiamo letto, dice che c'erano degli accordi sotto banco per spingere le imprese ad andare lì anche con elementi di vantaggio. E allora, da un lato c'è la società, il gruppo che può permettersi la consulenza e quindi di portare i soldi lì, e poi c'è, la butto in maniera un po' populistica, l'artigiano o il commerciante o il piccolo imprenditore che non ha questi vantaggi, e se però non fattura viene bastonato e finisce alla gogna. Attenzione, perché la legge deve essere uguale per tutti, e anche il trattamento. Chiaro il ragionamento di Adriana Ceretelli, che ringrazio. minuti. Vedo anche molti messaggi sulla citazione del film Gli anni ruggenti. Vabbè, adesso non esageriamo. Mero Battifori e Nino Manfredi, mitico, dove viene scambiato, se non ricordo male, per l'inviato del fascio, invece un banale rappresentante di commercio, con tutto un insieme di equivoci, tra cui appunto le mucche spostate da una fattoria all'altra. Ma in realtà, guardate che non era una critica a Renzi, era una critica ai colleghi dell'ANSA, perché il titolo dopo l'intervento "Renzi incontra le maestranze" era veramente un titolo da così si intrattiene, Renzi si intrattiene con le maestranze. La borsa oggi, giornata debole, ne parleremo anche più avanti di borsa, è meno 1% Milano, meno 0,90% Francoforte, meno 0,90% anche Parigi, più 0,20% Londra, l'America invariata, deboli tutte le banche oggi e poi anche altri titoli, ma lì c'è più un ragionamento sulle trimestrali. Guido Maurino, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, Unicredit meno 3,30, Pop Emilia Romagna meno 3,20, Banco Popolare meno 2,90, Ubibank meno 1,70, Pop Milano meno 1,70, Intesa meno 1,5. Come si spiegano? Si spiegano con una giornata che oggi è stata negativa per tutto il settore bancario, senza un tema particolare a guidare questo andamento, ma più che altro è stata una debolezza generalizzata che abbiamo visto non solo a Piazza Affari ma anche sugli altri listini. Quello che invece si può sottolineare a Piazza Affari è il fatto che Monte dei Paschi abbia fatto un più 0,15% dopo aver guadagnato anche il 2-3% nel corso della giornata, perché sono state rilanciate delle indiscrezioni da parte del Wall Street Journal che fissavano un mandato, secondo cui la banca avrebbe dato un mandato a Citi e UBS per cercare un partner prima dell'aumento di capitale. La società ha varato questo piano di rafforzamento dopo gli stress test che sono andati male, e però appunto sembrava un piano che, come dire, spostasse in là l'eventuale alleanza di Monte dei Paschi. Invece queste ultime indiscrezioni sostengono sostanzialmente che prima si trova un partner e poi si fa un aumento di capitale, un'operazione di rafforzamento. Il titolo su queste indiscrezioni oggi si è mosso in modo nervoso, anche se poi ha chiuso a più 0,15%. Ancora, Telecom ha pubblicato i conti, sembra allontanarsi a questo punto nella Telecom novela, come l'abbiamo chiamata, la vendita di TIM Brasil. Allora, l'utile dei primi 9 mesi è a 985 milioni di euro contro un rosso di 900 milioni di euro del 2013 che però scontava la svalutazione dell'avviamento. I ricavi meno 6%. In Italia comunque Telecom contiene il calo, anche in Brasile, cioè in Brasile è in crescita. Confermate tutte le previsioni del piano 2014-2016, manteniamo, ha detto il Presidente Giuseppe Recchi, le promesse sulla banda ultralarga. In Italia investiremo 3 miliardi di euro e poi il numero uno patuano ha detto ci sono segnali di ripresa in Italia, dovrebbe essere finita la guerra dei prezzi. Il terzo trimestre è significativamente in recupero. Perché la borsa non lo premia e lo punisce per il Brasile? Per il Brasile perché c'è tutta una parte del mercato che scommette sul fatto che Telecom prima o poi venderà il Brasile. Parole di Patuano in realtà sembrano frenare, perché Patuano ha detto che tutte le opzioni rimangono aperte da un'eventuale integrazione, aggregazione con noi, all'accessione eccetera, e soprattutto ha detto che se vendono venderanno a un prezzo molto caro e questo allontana un po' i possibili pretendenti, per cui su queste parole la borsa oggi ha preferito vendere. Altri titoli oggi in evidenza oltre alle banche e a Telecom. Prysmian bene, andiamo sui positivi, l'ex Pirelli Cavi fa più 3,40%, Saipem più 4,95%, Hughes più 3,12%, Moncler più 2,60%, Autogrill più 2,40%. Guarda Saipem, oggi c'è stato un forte recupero del prezzo del petrolio che si è riportato attorno agli $80, subito sotto $79 al barile, e questo ovviamente è positivo per Saipem che proprio lavora sulle tubature per il petrolio, per cui il titolo oggi è andato bene dopo un periodo comunque non facile. Per quello che riguarda Prysmian, che produce cavi, ieri la società ha dato i conti, ma soprattutto a differenza della maggior parte dei suoi concorrenti che hanno già dato i risultati, ha confermato i target. Ciao. 8 e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa. Oltre ai titoli citati, dicevo anche Moncler bene più 2,60, Autogrill più 2,40, CNH più 1,60, Tenaris più 1,40, migliori e peggiori in assoluto, SNAI più 16,50, SEAT pagine gialle più 9, Key Group più 7,40 e appunto Saipem. Fronte opposto invece, Cattolica Assicurazioni meno 17%, Safilo Group meno 9, Stefanel meno 8,60%, molto male Cattolica, anche perché sono state annunciate le condizioni del prossimo aumento di capitale, il titolo si muove di conseguenza, lo sconto sulle nuove azioni emesse sarà superiore a quello che si aspettava, è appunto meno 17%, Safilo Group invece meno 9%. Vedo molti messaggi ancora sul tema del Lussemburgo e della fiscalità. Allora, vabbè, a parte il più divertente che dice trasferiamo la sede fiscale dell'Italia in Lussemburgo. Qualcuno dice che noi vorremmo trasformare l'Europa tutta con la tassazione italiana. No, assolutamente no. Allora, c'è un, ripeto, una cosa assolutamente legale e già nota da anni, il fatto che alcuni paesi abbiano fiscalità talmente di vantaggio che le sedi legali dei grandi gruppi, le sedi fiscali dei grandi gruppi si trasferiscono lì. E, ma questo voglio dire, lo fa la Svizzera da anni. Mi scrive un ascoltatore che ha lavorato per una multinazionale americana che ha trasferito la sede europea in Svizzera, negoziato una tassazione all'8% e tutte le filiali europee sono diventate commissionarie con costi coperti, tutta la fatturazione veniva fatta dalla sede in Svizzera. Sono escamotage legali di carattere contabile, oddio, poi i governi si arrabbiano, per fare in modo che tutta la fatturazione avvenga nel paese dove c'è la fiscalità di maggiore vantaggio. L'accusa Juncker è al Lussemburgo, non a Juncker, è di aver fatto anche accordi sotto banchi, se no nessuno farebbe un'inchiesta su cose già note, cioè che Lussemburgo abbia una fiscalità di vantaggio. Per quello che riguarda invece il fatto che noi vogliamo che la tassazione è tutta a livello italiano, non è così, però è chiaro che devi avere anche un'armonizzazione fiscale, no? Che da noi le tasse siano altissime lo sappiamo, che ci siano paesi che hanno una fiscalità di vantaggio lo sappiamo, qui però l'accusa, ripeto, è di accordi sotto banco, di negoziazioni prima ancora che arrivassero i flussi e di vantaggio, vedremo dove porterà. Ancora per quello che riguarda qualcuno dice Juncker si è comportato semplicemente e astutamente come avrebbe dovuto fare qualcuno in Italia al posto di lasciare delocalizzare e non continuare a mettere più tasse. Sì, verissimo. Faccio anche notare che però l'Europa non può essere così schizofrenica da chiedere un aumento anche della pressione fiscale ai paesi che hanno i conti da sistemare, oltre che una riduzione della spesa pubblica, e dall'altro tollerare che vi sia una fiscalità così diversa al suo interno a livello complessivo. A livello poi specifico vedremo di che cosa si tratta e che cosa riguardano questi accordi sotto banco. Vorrei però continuare con i mercati finanziari, perché un nostro ospite, noi abbiamo degli ospiti fissi ogni qualche mese, li usiamo un po' come benchmark, un ospite che spesso abbiamo sentito sui mercati finanziari è il finanziere Giovanni Tamburi, che da un po' di mesi che interviene anche in maniera quasi un anno positiva, ottimistica sull'Italia in generale, e quindi lo ringrazio per averci raggiunto in collegamento. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, ricordo anche poi quello che fa lei, la Tamburi Investment Partners, per quello che, e quindi lei cosa fa? Compra pezzi di società, mette i soldi dei suoi azionisti in pezzi di società di cui compra il 10, il 20, il 30%. Dicevo, su questo Tamburi, anche oggi abbiamo avuto, lei tra l'altro è quotato a Piazza Affari, quindi è nella doppia versione di chi compra aziende anche quotate, partecipazioni in aziende anche quotate, e poi a sua volta è quotato, visto che il titolo, se non ricordo male, capitalizza circa 340 milioni di euro a Piazza Affari. Dicevo, anche oggi penalizzate tutte le banche europee e tutte le banche italiane soprattutto, in assenza di grandissime notizie. Non so, Unicredit perde il 3,40%, Banco Popolare il 2,90%. Cos'è? Ancora una coda sugli stress test o secondo lei il mercato si sta preparando ad altro? Ma non lo so, è difficile dirlo, anche perché le banche fanno un giorno più tre, il giorno dopo meno tre, è veramente complicatissimo. Io credo che un risparmiatore normale dovrebbe lasciar perdere investimenti in questo tipo di cose in questo momento, perché purtroppo quando si è schiavi di decisioni della banca centrale, stress test, asset quality review e tutte queste cose, è difficilissimo orientarsi. Io personalmente sono dell'idea che tutta questo cancan che è stato fatto le ultime settimane alla fine serve veramente a poco, perché hanno salvato quasi tutte le banche ed è chiarissimo che dal punto di vista politico ci sono stati degli interventi che hanno privilegiato banche di certi paesi e hanno danneggiato, anche senza virgolette, banche di altri paesi. La banca più danneggiata apparentemente d'Italia, cioè il Monte dei Paschi, sembra già aver organizzato in pochissimi giorni un aumento di capitale che la mette a posto e per cui sembrerebbe essere già al di fuori. Io credo che probabilmente bisogna guardare avanti, a parte che, come lei sa e forse qualche ascoltatore Radio 24 ricorda, che noi siamo molto più sull'economia reale, sulle aziende che funzionano eccetera e molto meno sulle banche, sì. Ma certamente bisogna non guardare questi avanti e indietro troppo violenti e troppo sbagliati tutti, in su e in giù. Ecco, restiamo allora sull'economia reale, perché al di là degli stress test, da settembre, da quando diciamo è ripartita l'attività, l'America ha fatto un più 3% come Dow Jones, il FTSE MIB un meno 6%. Vorrei capire, dopo il traffico, se la sensazione che lei ha è che la divergenza tra gli andamenti economici, traduco, l'America sta crescendo e bene, disoccupazione ai minimi da 6 anni, il PIL che cresce, la Fed ha smesso di stampare dollari, e dall'altra parte un'Europa che cresce meno delle attese, in cui anche la Germania rallenta, se non sia questa la vera variabile che sta muovendo gli investitori al di là del tema euro, tassi di interesse, banche e quant'altro. Ultima parte di Focus Economia. Dunque, Tamburi, proprio sull'economia reale. Allora, non è che le borse si stiano muovendo su questo, cioè vadano a vendere un po' di Europa e di area euro perché la crescita è reputata inferiore alle attese e un po' più di America? O invece lei vede ancora prevalere quello che voi chiamate lo stock picking, cioè chi se ne frega del paese, guarda la singola azienda, il singolo titolo e quello che fa? Allora, sono assolutamente d'accordo sulla prima affermazione, e cioè che avendo l'Europa chiaramente rallentato la ripresa, perché a gennaio-febbraio di quest'anno si riteneva che il 2014 avrebbe avuto un andamento molto più bullish, molto più forte, con una crescita più sostenuta, gli ultimi mesi dimostrano esattamente il contrario, che la crescita sta rallentando. I mercati europei erano arrivati anche loro sui massimi tra giugno e luglio, accortisi di questo stanno rallentando, è normale. L'America, che ha rallentato anche lei un pochino, ma che comunque continua a crescere, come lei diceva giustamente, l'occupazione va ai minimi eccetera eccetera, attrae ancora molti investimenti. Accanto a questo, secondo me, per fortuna dopo l'estate è cominciato anche un po' di stock picking, perché anche nella stessa Italia, nella stessa Europa c'è attenzione alle società più buone, più performanti. Ci sono società che comunque dall'inizio dell'anno hanno fatto delle buone performance e società che sono tornate a zero o addirittura in negativo. Anche perché chi interpreta questo andamento 2014 dell'economia reale in maniera positiva, con l'export, con l'innovazione eccetera eccetera, sta facendo risultati molto buoni. La maggior parte delle nostre partecipate sta facendo dei dati a settembre migliori dell'anno scorso, che era stato comunque un anno molto buono, e queste sono premiate. Chi invece accusa il colpo certamente rimane indietro. Ecco, a proposito di settori, il settore del lusso si è riportato, il colpo l'ha accusato, e io non posso non chiedere, Tamburi, perché lei su Moncler, se vuole può parlare, se no mi dice che non vuole commentare, però lei ha avuto un ruolo importante, è anche azionista di Moncler, se non ricordo male. Allora, vorrei un commento sul lusso, visto che il lusso si è sempre detto, guarda che l'Italia su questo ha grandissime possibilità sul Made in Italy, il lusso ormai non ha più numeri di nicchia, ma con i cinesi, gli indiani, gli indonesiani, i brasiliani, ha numeri da mercato di massa. Eppure tutti i titoli, incluso Moncler, si sono riportati su livelli molto bassi. Quindi il lusso in generale, e poi se vuole darmi anche un commento su quello che è successo su Moncler. Allora, il lusso in generale certamente si è ridimensionato negli ultimi mesi un po' da forse valutazioni eccessive dell'anno scorso, dei primi mesi di quest'anno, anche se rimane molto vivace. I famosi multipli, che io non amo molto, ma che tutti usano, continuano ad essere molto molto elevati sul lusso. Teniamo presente che il lusso quotato in Europa continua a viaggiare su un margine operativo lordo sul fatturato attorno al 24-25%, e per cui continua a essere nel mondo il settore che guadagna di più, continua a guadagnare di più. Perché ha rallentato? Perché in Cina ci sono state le politiche anti-bribing, cioè anti-mazzette, regalini o cose di questo genere qua, perché in tanti paesi del mondo c'è stato un po' di rallentamento nella spesa in questo tipo di cose, ma comunque il trend si mantiene molto molto forte, per cui la crescita c'è, si sta leggermente ridimensionando, però in un'analisi che noi abbiamo appena finito proprio in questi giorni e che pubblicheremo fra qualche settimana, viene fuori che a 10 anni, a 15 anni resta il settore più forte, più promettente, più performante di tutti i settori al mondo, compresa la tecnologia. Riguardo a Moncler, io sono solo felice che oggi abbia fatto il 2,62% di aumento, siamo tornati sulle quotazioni di una settimana fa, e per cui tiriamo avanti e i commenti li lasciamo a qualcun altro. Però almeno un commento sulla comunicazione di Moncler, non è stato un po' troppo sulla difensiva, un po' troppo così zitta, visto che queste cose si sanno anche prima, no? Si poteva comunicare meglio? Io sono un azionista importante, molto importante in Moncler, anche perché siamo soci della società di Remo Ruffini, che ne è presidente, amministratore delegato e anima, per cui lascia al consiglio di amministrazione le sue valutazioni e... Cioè glielo dirà privatamente a Ruffini? Rimaniamo azionisti e rimaniamo soddisfatti del fatto che la società... Tamburi, mi dica una cosa, in questo momento, visto che glielo chiediamo sempre verso il finale d'anno, i settori, lei sul lusso ha già dato un commento abbastanza esplicito, resta il settore che meglio si è mosso anche rispetto alle altre tecnologie, ma se lei dovesse adesso puntare sui settori in Italia o all'estero, mi interessa soprattutto l'Italia? Ma ritornerei sullo stock picking, cioè non mi preoccuperei tanto dei settori quanto delle singole società, cioè ci sono società all'interno dei settori, un'altra società che conosco bene, e Prismian, oggi ha fatto il 3,40% per risultati annunciati ieri. Basta prendere il settore dei cavi nel mondo, di cui Prismian è la numero uno. Prismian ha confermato quello che prevedeva di fare circa un anno fa, 9 mesi fa, eccetera. I due principali concorrenti, un altro europeo, un americano, hanno deluso le aspettative. Per cui in un settore come quello dei cavi per elettricità e per telefoni, che comunque viene utilizzato in tutto il mondo, c'è chi va molto bene e chi ci va meno bene. Per cui io credo che il consiglio agli ascoltatori debba essere semplicemente quello di scegliere società buone, performanti, innovative, che hanno dimostrato di aver fatto qualcosa di più dei relativi concorrenti. E in questo non ci si sbaglia, perché se anche da qui a fine anno, all'inizio dell'anno prossimo, ci potrà essere qualche altra perdita di valore, sulle società buone si può solo guadagnare nel medio termine. Ma è una battuta, ma prima o poi, visto che lei opera e investe anche in società che si rivolgono ai consumi interni dell'area euro, dell'Italia, della Francia, prima o poi, secondo lei, c'è qualche speranza che ripartano i consumi interni? C'è o dobbiamo immaginare che le nostre società vivano solo ed esclusivamente di export, che mi sembra quanto difficile? Allora, i consumi interni non sono così tragici come la gente racconta, perché la gente racconta i medioni fra tutti insieme, e se una società è brava, anche qui, fa un prodotto buono, si afferma e va bene. Faccio un esempio di una società che nel settore alimentare, di cui tutti parlano, i consumi alimentari scendono, eccetera, eccetera. Malsoia, società che questa quotata in borsa, è una società che continua trimestre dopo trimestre a sorprendere in positivo, perché si è inventata la nicchia della soia, un prodotto che cresce, eccetera, eccetera, e questo va bene. Per cui io credo che anche qui i consumi interni vadano interpretati a seconda della società e del prodotto che la società fa. Anche perché non è vero che tutti quanti noi siamo messi a non consumare più, siamo messi a consumare in modo diverso, non solo. I consumi interni della telefonia continuano ad essere vivacissimi, esce l'iPhone 6 e anche in Italia tutti facciamo le code, per cui credo che convenga in questi casi proprio selezionare, analizzare molto più puntualmente aziende, prodotti, comparti, segmenti, in maniera tale da dare i messaggi più precisi a chi vuole fare delle scelte di investimento. Ho capito, grazie a Giovanni Tamburi, amministratore delegato della Tamburi Investment Partners. Buonasera a tutti. Ma Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera. Dove sei? Sebastiano. Dove ti trovi? Sono a Lugano. Ai, eccolo lì. A Lugano a far che? Allora, ha un convegno in cui parla di fondi di investimento e calcio. Ah, e calcio. Che sembrano mondi lontanissimi. No, ma sai, in questo periodo stare in Svizzera, in Lussemburgo, uno deve sempre accertarsi perché sei lì. Allora, al di là della battuta, adesso non faccio in tempo oggi, ma vorrei già anticipare il tema che poi tratteremo lunedì, perché sulla vicenda Juncker si sta generando una confusione. Allora, è chiaro che prendiamo i prelievi fiscali sui redditi delle società, come è armonizzata bene l'Europa. Belgio 34%, Francia 33,5%, il prelievo fiscale sui redditi delle società. Italia 31,4%, incluso l'IRAP, questa è la media. Spagna 30%, Germania 29,5%. I grandi paesi oscillano tra il 34% del Belgio, grandi insomma, paesi vicini anche, e il 29% della Germania. Poi c'è il Lussemburgo che ha 29,2%, la Gran Bretagna 21%, la Svizzera 18%, Irlanda 12,5%. In realtà l'aliquota pagata dalle multinazionali in Irlanda, secondo il Trinity College, sarebbe di poco più del 2%. E poi ci sono le isole caraibiche britanniche, l'1,2%, Bermuda lo 0,4%. Lasciamo stare Bermuda per un attimo. Il tema qual è? Perché noi già sapevamo che c'erano diversi trattamenti fiscali in Europa. L'accusa a Lussemburgo è un po' diversa, così almeno su questo chiudiamo la puntata. Prego. Sì, di fatto quello che è venuto fuori attraverso questa inchiesta giornalistica era che c'erano accordi per i quali la tassazione era ancora più bassa, cioè veniva concessa una tassazione praticamente pari a zero, vicino all'1%, dal Lussemburgo per attrarre le grandi multinazionali. Questo che significa che si creava in Europa una distorsione ancora maggiore della concorrenza, ed è l'unico motivo, bisogna questo sempre ricordarlo, per cui l'Unione Europea può intervenire in ambito fiscale, che in realtà è un ambito, diciamo, di carattere più economico, legato appunto alla distorsione della concorrenza. C'è una grande ipocrisia in Europa, in Unione Europea, cioè il fatto che il fisco è un tema assolutamente nazionale su cui l'Unione Europea non incide, però chiaramente diventa distorsivo della concorrenza, l'Unione Europea ci può fare poco, salvo accusare di aiuti di Stato. Lunedì torneremo a parlarne, mi raccomando. Lugano tutto bene? E rientra, addio Lugano Bella, rientra anche a Milano. Grazie a Marco Bellinazzo, un ringraziamento anche a Mauro Del Corno, come sempre Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto a chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Amundi indirizza i tuoi investimenti sul sentiero giusto. Vi ha presentato Focus Economia.